2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda tutte le settimane anche in versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Iniziamo questa puntata parlando di biciclette, perché anche in Italia, in particolar modo a Milano, potrebbe presto arrivare il bike sharing free floating, tradotto in italiano la bicicletta in condivisione con presa e rilascio libero. Allora, è una modalità di usare la bicicletta molto frequente in Cina, dove c'è stato un vero e proprio boom, direi nell'ultimo anno, con alcune società tra l'altro che sono riuscite a raccogliere capitali piuttosto ingenti dai venture capital. Evidentemente sono business promettenti. Queste società hanno riempito le principali città con milioni di biciclette ed è una rivoluzione resa possibile dagli smartphone. Dunque, allora, come funziona questo sistema? Le biciclette sono geolocalizzate con un ricevitore GPS, sono connesse tramite rete mobile, quindi hanno una SIM integrata. Attraverso un'app sullo smartphone uno può vedere dove si trova la bicicletta, può prenotarla e sempre tramite smartphone la può sbloccare, perché su queste biciclette c'è un lucchetto elettronico connesso alla rete. Anche questo è un esempio della Internet of Things, la Internet degli oggetti, oggetti connessi alla rete, e questi oggetti in questo caso sono biciclette. La particolarità del bike sharing free floating è che le biciclette possono essere lasciate ovunque e prese ovunque siano, senza necessità di riportarle in apposite stazioni dove ci sono gli stalli, così come succede nei sistemi di bike sharing diffusi oggi nel mondo. Allora, dicevamo di Milano, il comune ha stabilito le caratteristiche che dovranno avere le biciclette in condivisione prive di stalli, così viene definito dal comune, e ha lanciato una sperimentazione di 3 anni con una flotta massima complessiva per la città di Milano e comuni limitrofi di 12.000 biciclette massimo, perché in caso di successo potrebbero arrivarne anche molte di più. Già dal 5 luglio potrebbero esserci i nomi dei primi operatori. La bicicletta avrà un sistema GPS integrato, è scritto appunto nel comunicato del Comune di Milano, un GPS per la localizzazione durante l'utilizzo e in caso di furto un sistema di bloccaggio-sbloccaggio attivabile da remoto tramite un'app concepita in modo che la bicicletta possa essere parcheggiata senza essere legata ad un supporto, appunto come dicevamo poco fa. Altre notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo, potrei dire, in ordine alfabetico dalla A di Amazon, che ha comprato per 13,7 miliardi di dollari Whole Foods, una delle più note e prestigiose catene di supermercati negli Stati Uniti, famosa per l'alta qualità su cui ha sempre puntato. È stata infatti la prima a lanciare su grande scala il cibo biologico. Però questa acquisizione ha senso prima di tutto perché Whole Foods è una buona azienda che fa utili alla fine dell'anno, ma anche perché in un mondo dove sta crescendo il valore della multicanalità, o detta anche omnicanalità, dell'incrocio di dati tra utenti che fanno acquisti in negozi fisici e su siti di e-commerce, avere un canale di distribuzione fisico è sempre più importante per chi è specializzato in e-commerce come Amazon. Non ultimo il fatto che Amazon vuole estendere il proprio business al settore dell'alimentare fresco. Comunque questa dell'omnicanalità è molto importante, visto che le persone difficilmente fanno solo e-commerce, ma da qualche parte poi fisicamente vanno, quindi cercare di presidiare i due canali è molto importante per tentare poi di raccogliere dati dall'una e dall'altra parte. Mettendo insieme tutti questi dati si conoscono sempre meglio le abitudini dei consumatori. Nella TV del futuro le aziende locali, e per locali intendiamo nazionali, dovranno vedersela in tutti i paesi del mondo con chi sta costruendo piattaforme globali come ad esempio Netflix o Amazon Prime Video. A chi si chiedeva che cosa farà Apple, un indizio lo dà una notizia di questa settimana che Jamie Ehrlich e Zach Van Amburg, i due presidenti di Sony Pictures Television, sono stati assunti dall'Apple per curare la divisione video dell'azienda. Una sentenza della Corte di Cassazione italiana depositata in settimana dice che il dipendente che usa in maniera sistematica la connessione internet aziendale per fini personali può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo. L'azienda, che usa strumenti di controllo a distanza per accertare questo utilizzo irregolare, non è soggetta alle regole previste dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, perché in questo caso si applicano solo se il controllo riguarda lo svolgimento della prestazione, ma non l'accertamento di eventuali illeciti del dipendente. Quindi attenzione, la decisione certo nasce da un caso abbastanza eclatante, poi dipende sempre dalle aziende. Ci sono aziende che dicono: ma chi se ne frega, fai quello che vuoi, certo senza rubare momenti al lavoro. Però il caso da cui è partito tutto, un dipendente che per 27 volte nell'arco di 2 mesi, per un totale di 45 ore complessive, si era fatto i fatti propri sul web. Un'altra sentenza della Corte Europea di Giustizia potrebbe creare un problema alle tante piattaforme di condivisione di file audio video come YouTube, Facebook, eccetera, eccetera. Allora, questa sentenza si riferisce a The Pirate Bay, che è un sito fondato sulla pirateria, come dice del resto il nome, ma per la prima volta i giudici dicono che il sito ha un ruolo attivo nell'organizzare i contenuti e quindi ha una responsabilità diretta in caso di violazioni del diritto d'autore. Finora siti del genere si erano sempre nascosti dietro il fatto che sono i consumatori che caricano contenuti illeciti e illegali, e quindi solo dopo una segnalazione, ne abbiamo parlato anche recentemente nel 2024, solo dopo una segnalazione il sito si preoccupa di cancellare quei contenuti. In questo caso i giudici dicono: eh no, dovete stare attenti prima che questi contenuti vengano a contatto con altri consumatori, con altri utenti della rete. Un'ultima notizia riguarda la Digital Radio, il DAB. Questa settimana sono iniziate le trasmissioni di Toscana DAB, Radio Digitale Toscana, che anche se sono due nostri concorrenti, però mi piace sottolineare la notizia, diamo il benvenuto a questi due consorzi che sono destinati all'emittenza locale della Toscana sulle frequenze della radio digitale. In totale sono 24 le nuove emittenti in tecnica digitale, quindi in Digital Radio. Il nostro consorzio, il nostro fornitore di servizio DAB Italia, continua la pianificazione delle antenne e degli impianti. Recentemente sono stati accesi alcuni impianti nel centro e nel sud Italia, quindi la nostra rete, la rete dove potete ascoltare Radio 24, si sta estendendo sempre di più, quindi questa è una buona notizia. Passate sia in casa ma soprattutto in automobile alla radio digitale DAB, alla Digital Radio. Potremmo dire che con la fine di questa settimana, il 16 giugno 2017, si inaugura una nuova stagione per la rete internet in Italia. Allora, Infratel Italia, che è la società del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupa dello sviluppo delle reti nelle aree a fallimento di mercato, e Open Fiber, che è la società nata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti, hanno firmato il contratto di concessione per la realizzazione di una rete a banda larga. Anzi, dicono gli esperti, banda ultra larga oggi, sempre più bianco come una volta era il detersivo. Allora, questa rete a banda ultra larga nelle aree a fallimento di mercato riguarda 6 regioni, Abruzzo, Molise, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, e si tratta del primo bando di gara. Ricorderete, lo scorso anno ne abbiamo parlato ampiamente, di una serie, sono 3 bandi di gara che mettono a disposizione delle società che partecipano a questi bandi di gara soldi per creare questa infrastruttura che rimane di proprietà dello Stato. Secondo un comunicato diffuso da Infratel, i primi cantieri verranno aperti entro la pausa estiva. Questo primo bando riguarda 7,2 milioni di cittadini in 3.000 comuni. La seconda gara per ulteriori 11 regioni è stata vinta sempre da Open Fiber, anche se non è ancora ufficiale, deve essere aggiudicata ufficialmente entro fine luglio. La terza gara per le ultime 3 regioni, Puglia, Sardegna e Calabria, è programmata nei prossimi mesi. Ricordiamo che il disegno del governo Renzi è stato sollecitare Enel a creare un soggetto terzo, cioè Open Fiber, terzo rispetto agli operatori di telefonia, che riporti un po' di concorrenza nel settore e quindi cerchi, diciamo, acceleri gli investimenti in fibra ottica necessari per un paese che vuole rimanere competitivo e tutti noi sappiamo quanto ne abbiamo bisogno. Non è un caso che dopo la nascita di Open Fiber anche TIM si sia data una svegliata e stia accelerando gli investimenti un po' ovunque in tutta Italia. Questa settimana TIM, ad esempio, ha annunciato che in circa 1000 comuni sono disponibili connessioni fino a 200 megabit su tecnologia FTTC, cioè quella dove la fibra arriva fino all'armadio di strada, quindi fibra fino ad un certo punto, poi da lì c'è il doppino di rame che arriva in casa. Ci sono però delle aree nel paese, soprattutto nelle grandi città, dove gli operatori di telefonia stanno mettendo fibra fino all'appartamento e dove il nuovo terreno di battaglia, pensate, sono offerte a 1 gigabit al secondo. Però ovvio che a pochi serve 1 gigabit, soprattutto una mossa pubblicitaria, però ci dà il là della concorrenza che sta nascendo nel settore ed è una buona cosa, anche perché poi nel giro di pochi anni il gigabit sarà necessario. Una cosa certa è che appunto l'investimento dello Stato, come dicevamo prima, nelle aree periferiche, quelle cosiddette fallimento di mercato, sta facendo decollare l'intero settore e che le cose stiano cambiando. Me lo ha confermato questa settimana Alberto Maron, che è amministratore delegato di Optical Fiber Service, che è una società che si occupa di reti in fibra ottica e che forma nuovi specialisti, e sembra che nel mercato ci sia bisogno di tantissimi nuovi specialisti. Ma stanno cambiando perché sicuramente il progetto che stanno seguendo sia gli operatori più importanti, per cui da TIM con il matrimonio fatto con Fastweb, per cui Flash Fiber piuttosto che Open Fiber del gruppo Enel, stanno sviluppando e stanno costruendo per riuscire a rispondere alla famosa agenda digitale che ci chiede a livello di comunità europea nel 2020 di avere il 100% della popolazione degli collegati almeno con una banda di 30 mega, indifferentemente col tipologia, che possa essere fibra, etere, wifi, l'importante è che ogni utente possa avere i 30. Certo, però visto che lei si occupa di fibra ottica, quello che sta vedendo è che c'è molta richiesta di installatori di fibra ottica, quindi comunque il mercato sta partendo e sta accelerando su quel fronte. Direi di sì, perché con le aziende con cui stiamo lavorando in termini di formazione sono aziende che oggi mi stanno chiedendo profili di personale con questo tipo di conoscenza, e stiamo parlando, diciamo, dall'anno scorso devono inserire le aziende con cui lavoro, che sono tra l'altro le due più grosse a livello italiano, circa 1700-2000 nuovi dipendenti che abbiano questo tipo di profilo. Quindi quasi 2000 installatori. Quasi 2000 installatori, e non nascondo che in questo momento abbiamo difficoltà, non tramite noi ma tramite società che devono fare reclutamento, per cui agenzie interinali di somministrazione, abbiamo difficoltà di trovare dei diplomati per riuscire a fargli fare corsi di formazione, tra l'altro anche gratuiti utilizzando i fondi di formazione. Adesso cambiamo argomento, parliamo di nuove idee che raccolgo in giro per l'Italia. Questa settimana ho fatto tappa a SMAU e ho parlato con Giancarlo Cassani, che è l'amministratore delegato di Full Over, che ha lanciato un prodotto, un servizio che si chiama Salta Cassa. Allora, è un sistema che automatizza la cassa di un negozio. Idea molto semplice, ma mancava, e quindi sentiamo di che cosa si tratta. Salta Cassa è proprio un sistema di self-ticketing out of door, cioè quindi posso crearmi il mio scontrino fiscale nel store, nel negozio che più mi interessa in quel momento, che mi piace, anche quando sono a casa, quando sono in auto, quando sono in treno. Sono in treno, arrivo a Milano e devo andare in un locale ad acquistare un paio di scarpe a mia moglie, posso acquistarle in treno. Arrivo nel locale, faccio vedere il mio codice virtuale alla macchinetta che mi stampa lo scontrino e senza operatore di cassa, senza nessun altro intervento, ho il mio scontrino, ritiro le mie scarpe e vado a casa. Questa è una ipotesi. La seconda ipotesi è che io entri nel locale così come faccio nella vita di tutti i giorni e sono di fronte a questa macchina, perché è una macchina, possiamo raccontarla come una specie di bancomat sostanzialmente. Che, ecco, davanti a questa macchina che poi emette lo scontrino, che cosa posso fare? Come interagisco? Posso inquadrare banalmente il QR code identificativo della macchina e anche in questo caso del locale in cui è, e ho sul mio smartphone l'elenco delle offerte o il menu del locale dove sono, quindi posso fare l'acquisto direttamente lì. Quindi io, girando banalmente per lo store o per il negozio, posso acquistare virtualmente sul mio smartphone qualsiasi prodotto che è stato pubblicato. Certo, quindi facciamo l'ipotesi del bar: io entro davanti a questa macchina, posso pagare il caffè, la macchina mi emette lo scontrino e vado direttamente al bancone e il barista mi dà il caffè. Esatto, proprio così, io salto completamente la fila che c'è alle casse e vado direttamente a ritirare il prodotto. Quello del self-ticketing, cioè della possibilità di farsi lo scontrino in autonomia, quindi l'automazione della cassa, è un fenomeno che stiamo osservando un po' in tutto il mondo. Forse l'esempio più facile, quello più diffuso, è in alcuni ristoranti McDonald's. Andate davanti ad un display e potete scegliere, comporre il proprio menu e alla fine pagare e ricevere uno scontrino e andare direttamente alla cassa. Quello è un sistema piuttosto sofisticato, è un sistema anche molto costoso, però McDonald's se lo può permettere. Il sistema intelligente di cui ci ha parlato Giancarlo Cassani, cioè Salta Cassa, è molto più semplice, anche ovviamente più economico, e si basa sullo smartphone. Quindi lega questo sistema che emette lo scontrino allo smartphone, dove possiamo vedere ad esempio il menu di un ristorante, il menu di un bar o di un qualsiasi altro negozio. E questa è una tendenza interessante. Come sempre al 2024, quello che quello che vorrei far emergere sono le tendenze al di là dei servizi specifici o i prodotti specifici di cui parliamo. A proposito di tendenze, sta succedendo in agricoltura molto, cioè l'agricoltura a vario livello si sta affacciando al mondo della tecnologia e sta cercando di osservare come sfruttare la tecnologia per migliorare la produzione, migliorare ad esempio la distribuzione. Osvaldo De Falco è uno dei fondatori di Be Your Farm, scritto così, Be Your Farm, anche se poi pronunciato sembra Be Your Farm all'inglese. Che cos'è? A cosa serve? Qual è l'idea di fondo di questa startup? Noi mettiamo in collegamento i piccoli agricoltori locali biologici con le persone attraverso gli alberi. Utilizziamo l'albero come strumento di collegamento. Le persone su beyourfarm.com possono scegliere e adottare degli alberi dagli agricoltori locali che fanno parte del nostro network in tutta Italia e crearsi un vero e proprio campo agricolo digitale. Quindi tramite smartphone o computer possono seguire la coltivazione dei propri alberi direttamente dagli agricoltori che dal trattore della campagna condividono quello che avviene con un click. E tu utente avrai nel tuo account tutte le informazioni su come viene coltivato il tuo albero, quindi sai dov'è, sai come viene coltivato, sai chi lo coltiva e soprattutto, cosa molto importante, quando il tuo frutto del tuo albero è pronto, l'agricoltore lo raccoglie, lo mette nel box e te lo manda a casa e ti arriva in 24 ore dopo la raccolta. Io ricevo la frutta proprio di quell'albero, preciso, cioè quello che io ho adottato? Allora, nel momento in cui tu adotti l'albero, quell'albero viene geolocalizzato, cioè è geolocalizzato prima, tu sai che è lì, in quella posizione, in quel campo, con quel numero, avrai il cartellino con il nome che tu sceglierai per l'albero e in qualsiasi momento potrai andare a visitarlo. Durante la raccolta puoi andare a visitare il tuo albero e raccogliere i frutti del tuo albero. Virtualmente dal computer. Puoi andare fisicamente. Ah, posso anche andare fisicamente? C'è l'albero lì, geolocalizzato, tu puoi metterlo in macchina, organizzarti, se l'agricoltore o l'agriturismo andarlo a trovare, e c'è quell'albero. Trovi l'albero, il cartellino, prendi i tuoi frutti, te li metti nella borsa, nella cassetta e puoi andare via. Se decidi di riceverle, invece ricevi i frutti anche del tuo albero, ma non solo, perché l'agricoltore raccoglie i frutti degli alberi che sono in una determinata area che va di 16 alberi più o meno, quindi c'è anche il frutto del tuo albero, però quando viene spedito non garantiamo che venga precisamente dal tuo albero, ma anche dal tuo albero, mentre se vuoi andarlo a raccogliere, è lì il tuo albero, lo puoi raccogliere. Certo, però io immagino che la componente virtuale di commercio elettronico sia prevalente, anche perché voi avete frutti come le mele del Trentino, quindi se io abito in Sicilia e prendo le mele del Trentino, insomma è un po' scomodo che io vada fisicamente in Trentino, viceversa avete arance della Calabria o della Sicilia e se io abito magari in Lombardia è un po' difficile che io vada, quindi la componente di e-commerce penso che sia importante e fondamentale. Parliamo di prezzi, cioè tutto ciò deve anche avere un prezzo competitivo, sì. Se no io vado al negozio vicino casa. Sì. Allora, ogni adozione ha un prezzo che varia in base al tipo di albero che vuoi usare per comporre il tuo frutteto digitale, il tuo campo digitale. Andiamo dalle ordini delle centinaia di euro per l'olivo alle decine di euro, 20 euro per le arance. Una tantum? Una tantum. Una tantum cosa vuol dire? Che si paga ad esempio 30 euro per l'adozione di un albero di arance una sola volta, si monitora e si mette l'albero nel suo frutteto virtuale e poi si riceve compreso nel prezzo una cassettina di frutta compreso di spedizione. Se andiamo a ragionare nell'ordine del prezzo euro chilo finale, perché magari la persona poi alla fine, anche se non è in genere il nostro utente a cui interessa il prezzo, del rapporto euro chilo paragonato alla grande distribuzione organizzata o anche alle ortofrutte, siamo sempre con un prezzo più basso rispetto a quello che si trova sul bancone. Come facciamo? Chiederai. È semplicissimo. E considera che l'arancia che tu vai a comprare, faccio l'esempio delle arance perché io sono calabrese, nasco in un territorio di agrumi e quindi mi viene molto più semplice, ma possiamo parlare anche di mele, albicocche, kiwi e quel che vuoi. Quando vai al supermercato a comprare le arance, devi sapere che quelle arance sono lì e anche se sono nel reparto fresco, di fresco hanno ben poco, perché hanno, non so se sai qual è il tempo medio di trasporto per i frutti dal campo al bancone del supermercato. Il tempo medio sono 106 ore, quindi parliamo di circa 5 giorni di viaggio. In questi 5 giorni il prezzo va dall'agricoltore alla cooperativa commerciante, al distributore, al lab, ai vari retails, supermercati poi che dove va il cliente finale. E il supermercato può anche conservare i frutti, in base al frutto ovviamente, fino a 4 settimane nelle celle frigorifere. Quindi quel frutto che vai a prendere sul bancone, tutto ha che, tranne che un sapore di fresco, diciamo. E anche il prezzo subisce. Il prezzo lievita. Lievita perché questi quattro attori devono comunque avere un margine nella filiera, e alla fine chi è più svantaggiato è chi produce, che prende 20 centesimi al chilo per le arance, e chi consuma, che paga 3 euro al chilo per le arance. Noi che facciamo? Tagliamo completamente la filiera e riusciamo a garantire un prezzo sempre più basso, anche se il trasporto ovviamente incide un bel po' sul nostro modello, ma riusciamo sempre a mantenerci più bassi. Modello di business vostro? Molto molto semplice. L'adozione prevede una spedizione che può essere unica o sotto forma di abbonamento. Cosa vuol dire? Che è possibile adottare un albero e avere all'interno del prezzo pagato la consegna di una sola cassettina di frutta di cui si decide la quantità, se piccola, media o grande. E poi quando si finisce si può andare nel proprio campo virtuale e richiedere di raccogliere altra frutta dal proprio albero. Oppure si può fare un abbonamento se si è sicuri del prodotto, se piace il servizio, e decidere ogni quanto tempo si vuole che la frutta venga consegnata. Quindi io adotto un albero di mele del Trentino e decido che dal CLES in Trentino, dal periodo delle mele, ogni mese ricevo una cassettina di 10, 15, 20 kg, quanto voglio io. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14 con la nostra mini replica. Ma come sempre vi ricordo la nostra edizione podcast che abbiamo ridenominato Super Podcast, con tutte le nostre interviste in versione integrale. Scaricatela, consigliatela ai vostri amici, riascoltate 2024 in Super Podcast. Saluto Giampiero Lotito, fondatore, CEO, quindi amministratore delegato e anche CTO, Chief Technology Officer, cioè responsabile dello sviluppo tecnologico di Facility Live. Benvenuto a 2024. Grazie. Facility Live è una società che si occupa di tecnologia. Siete dei produttori di software made in Italy, questo è importante, poi ne parleremo. Dico bene, ma forse dico poco, se dico che vi occupate di motori di ricerca? Sì, la tecnologia parte da un motore di ricerca attorno alla quale è stata costruita una piattaforma che è un concetto tecnologico un po' più ampio, perché costruire una piattaforma vuol dire costruire un'esperienza per gli utenti quando utilizzano la tecnologia innovativa e non solo l'algoritmo che va a cercare le informazioni. In più, nel nostro caso, c'è anche una capacità di preorganizzare le informazioni che consente di avere, rispetto agli attuali motori di ricerca, una esperienza per l'utente e soprattutto una qualità del risultato finale superiore. Poi ci torniamo. Siete oggi un'azienda di un'ottantina di persone che sono fondamentalmente softwareisti, cioè gente che sviluppa software? No, no, abbiamo filosofi, abbiamo qualcuno che arriva dal mondo dei contenuti, abbiamo grafici. La creazione oggi di una tecnologia che deve essere utilizzata dalle persone. Abbiamo anche una persona che è laureata in scienze del comportamento umano, delle decisioni umane, in un'università straniera ma italiana. Oggi le competenze che servono per creare una tecnologia che impatta sulla vita delle persone non sono solo più competenze tecniche, c'è una forte componente umanistica e una forte componente creativa. Voi sviluppate software, dicevo, in Italia e vorrei subito chiederti un parere sulla qualità di quello che noi riusciamo a fare, perché non siamo famosi per il software, ma più di una persona, vorrei anche il tuo parere, mi dice siamo molto bravi in realtà. Questa è stata forse la sfida più importante e più difficile da vincere, perché noi siamo ritenuti dei grandi creatori di cose, ma non abbiamo la fama di essere grandi nell'execution in alcuni ambiti, cioè nell'esecuzione del lavoro fatto con un certo livello di qualità. Uno di questi ambiti era il software, dove non avevamo fino a un po' di tempo fa come paese questo tipo di credibilità. Devo dire che non solo per noi, per Facility Live, ma per una serie di situazioni appunto che si stanno creando nel nostro paese, questa credibilità sta aumentando estremamente. Non c'è una ragione per cui un laureato di Torino, Pavia o Napoli sia meno talentuoso o meno intelligente di uno di Stanford, di Berkeley o di Harvard. Lì c'è un sistema che li supporta e li fa crescere velocemente, soprattutto quando partono con le start-up, che tutti chiamano ecosistema, no? Che permette a loro da un certo momento in poi di decollare molto più velocemente. Ma questo lo possiamo creare in Italia, ma il talento dei nostri ragazzi è allo stesso livello. A proposito di start-up, tu partecipi non solo, ma partecipi a molti eventi di start-up. Vi va un po' stretto questo termine startup, anche perché voi siete, a parte l'idea ha una quindicina d'anni, ma l'azienda esiste dal 2010 e tu non sei un ventenne. Sì. Beh, questo, l'ultimo dato forse è il meno importante, perché ci sono due tipi di startup. Startup che nascono da una grande idea, e una grande idea ti può venire a 21 anni, e startup che nascono da una grande esperienza. Quella a 21 anni è un po' più difficile averla fatta. L'eccellenza che in questo momento rappresenta Facility Live nello scenario internazionale come tecnologia viene da più di 20 anni fatti da me e Mario Ciateroni di lavoro quotidiano con gli editori, con i grandi editori italiani, a creare applicazioni tecnologiche per il contenuto. Se noi non avessimo fatto questo percorso, non avremmo oggi brevetti in 44 paesi del mondo e l'azienda non avrebbe il know-how che le ha permesso di andare sulla scena internazionale. Quindi l'età dipende dal fatto che se hai una startup che nasce da una grande esperienza non puoi averla a 20 anni. Ah, non c'è dubbio, certo, ma vi va un po' stretta la definizione di startup? Onestamente no. Perché adesso parliamo proprio di immaginario collettivo digitale. La Apple è una startup perché è nata in un garage. Il fatto che poi una startup diventi la più grande azienda del mondo è un'altra cosa, perché non è un'azienda nata da un finanziamento statale, non è un'azienda nata da una costola di un'altra grande azienda. Startup è un DNA. Quindi per me si rimane startup per sempre, e finché un'azienda riesce a mantenere nel proprio vivere quotidiano il DNA della startup, cioè essere innovativa, inventiva e rompere le regole, perché questa è un'altra caratteristica, può continuare a definirsi startup senza problemi. Sì. Ci dici qualche cosa in più sulla tecnologia che voi avete sviluppato? Poi ci dici anche dove si trova chi la usa o chi la userà. Sì, allora noi abbiamo creato una piattaforma, come dicevo, che contiene un motore di ricerca innovativo di prossima generazione, che ti permette ad esempio di porre al motore domande complesse. Per esempio, voglio andare in vacanza in un posto caldo, in un hotel a 4 stelle, con la cucina italiana, con vicino un campo di tennis, eccetera eccetera eccetera, in una sola ricerca, e non ti restituisce una semplice lista di risultati e di link da cliccare, ma ti dà il contesto informativo, prendendolo da tante fonti contemporaneamente, perché tu possa costruire in un solo colpo tutta la tua esperienza di viaggio. Questo è molto diverso rispetto a quello che ci capita di fare oggi sui motori di ricerca. Diciamo che vederlo è ancora più facile che spiegarlo, però stiamo parlando di un accesso alle informazioni facilitato che ci permetterà in futuro di riuscire ad avere non solo informazioni più precise, ma un'esperienza diversa quando ci mettiamo davanti al computer e lo interroghiamo per avere delle risposte. Sì, questa tecnologia viene già utilizzata. E da chi o sarà utilizzata? Allora, è utilizzata in questo momento ad esempio da alcune grandi banche, da una grande telco, per rispondere alle chiamate degli utenti, e quindi quando si chiama questa società di telecomunicazioni l'agente di call center risponde utilizzando la nostra tecnologia sopra altri 25 sistemi, quindi raccogliendo in tempo reale le informazioni da altri 25 sistemi che sono state preorganizzate in un indice, quindi permette di far parlare i 25 sistemi tra di loro, e l'utente ottiene immediatamente nel tempo di una search le informazioni su quel cliente, potendo rispondere ad esempio evitando quel attenda un attimo, click, musichetta, passo da un sistema all'altro e riclick dopo 2 minuti. Quindi ad esempio velocizza molto questo tipo di operazioni. Abbiamo anche fatto l'applicazione ufficiale del G7 di Taormina, l'applicazione mobile. Abbiamo sviluppato per conto della Commissione Europea lo studio per quello che potrebbe essere il futuro portale unico della pubblica amministrazione europea. Quindi stiamo puntando a progetti internazionali di grande dimensione. Stiamo per portare la tecnologia in cloud, che vorrà dire che nel corso dei prossimi anni anche un individuo potrà collegarsi a questa tecnologia per organizzare le informazioni sul proprio telefonino, sul proprio iPad e metterle in connessione anche tra di loro in modo da avere la search della propria vita disponibile. Questo è un fatto importante, indipendentemente dal fatto che questo lo faccia Facility Live domani, come noi ci auguriamo, o vengano fuori anche altre tecnologie che fanno questo, perché rimette l'uomo al centro delle cose. Quindi, ecco, questo è interessante. Beh, perché qual è il problema di oggi? Cioè, che cos'è che non riusciamo a fare oggi che invece voi state pensando di fare? Allora, diciamo, sono due cose, una su un piano più tecnico e una su un piano più, se vogliamo, filosofico. Quella sul piano più tecnico è la possibilità di interrogare un sistema che ci fornisce informazioni con la modalità di dialogo di un essere umano, tra esseri umani. Cioè quello che stanno tentando di fare tutti con gli assistenti virtuali, che ancora ci riescono poco. E ci riescono poco perché l'attuale intelligenza artificiale è capace di rispondere a quelli che tecnicamente si chiamano narrow task, che vuol dire piccoli compiti, no? Non sono capaci di rispondere a general task, che vuol dire compiti o domande complesse. Quindi devono mettere in fila tanti piccoli compiti per poter rispondere a quello che noi gli stiamo chiedendo. Questo fa sì che la tecnologia non sia molto intelligente in sé. Io fino a un po' di tempo fa dicevo queste cose sorridendo e scherzando, oggi le dico un po' più seriamente. L'attuale intelligenza artificiale è la fine del passato, non è l'inizio del futuro, come ci stanno raccontando, perché è la coda lunga, straordinariamente efficace in tante cose. Se devi fare detection delle frodi delle carte di credito, l'attuale computazione massiva, intelligenza artificiale, lo fa in modo straordinario. Ma se devi chiedere, come facciamo fra esseri umani, se io chiedo dove ci vediamo domani, a che ora e cosa facciamo, in una domanda ne sto facendo tre. E mi viene risposto normalmente da un essere umano: ci vediamo in Piazza Duomo alle 12 e andiamo a mangiare nel ristorante tale. Mi dà tre risposte. Già questo non riesce a farlo l'attuale intelligenza artificiale, ma c'è un'altra cosa che gli uomini hanno come capacità. Non ci diamo un appuntamento a Istanbul, ce lo diamo a Milano, perché il nostro cervello sa che domani siamo a Milano. Certo. Quindi anche se nessuno dei due l'ha detto, l'appuntamento è implicitamente lì. La capacità di riuscire a leggere queste informazioni creerà tecnologie in futuro molto più potenti di quelle che oggi ci vengono raccontate. Per dirla con un esempio comprensibile anche a un non tecnico, l'attuale intelligenza artificiale è un po' la carrozza a cavalli che corre sempre, sempre, sempre più veloce, ma noi stiamo lavorando sull'automobile, quindi stiamo lavorando su un paradigma diverso. Certo. Chi costruirà la migliore automobile vincerà la partita, quindi noi o tanti altri che ci stanno provando, però poi ci sarà posto per tanti costruttori di automobili come è successo cento anni fa. Ecco, poi in questo nuovo spazio che si sta creando torniamo, ma l'aspetto filosofico invece? L'aspetto filosofico è che c'è una parte del mondo per cultura che ama essere indirizzata. Quindi il fatto che un algoritmo mi dica qual è il miglior film, la miglior ricetta, la miglior notizia, eccetera, eccetera, soddisfa la mia pigrizia o la mia poca volontà di andare a scegliere io qual è l'informazione più giusta. Mi accontento di quello che mi viene detto. Lo trovo soddisfacente. Okay. Esattamente come c'è chi ama mangiare lo stesso hamburger ad Hanoi, a Parigi e a Washington. Si sente tranquillo e rassicurato. Si chiama McDonald's per chi non ha. Però è uno stile, è un modo di concepire il rapporto con le cose. C'è un'altra parte del mondo invece, e l'Europa è una grande interprete da questo punto di vista di questo modo di vivere, che vuole scegliere, che vuole avere la possibilità di dire ok, è questa la notizia più importante, questo è il film che volevo vedere, eccetera eccetera. Allora dare a questa, questo vuol dire però che da una parte c'è la macchina che domina e dall'altra c'è l'uomo che domina la macchina, e questa seconda cosa è una delle sfide del futuro, perché noi dobbiamo fare in modo che i robot siano al nostro servizio, non che ci sostituiscano. Chiaramente questo apre degli scenari di pensiero, degli scenari tecnologici estremamente interessanti, perché questo è lo spazio in cui l'Europa potrebbe andare a creare il suo grande futuro tecnologico. Tu credi che sia possibile? Perché oggi gli Stati Uniti, visto che c'è chi dice software is eating the world, cioè il software si sta mangiando il mondo, tradotto, cioè l'importanza del software è sempre più elevata. Pensiamo alle automobili, ormai sono non tanto pezzi di ferro, ma software, e lo saranno sempre più. Ma sai, normalmente nella storia della tecnologia c'è qualcosa che da una parte è la gente, sono gli utenti, e dall'altra il valore in sé della tecnologia che risistema le cose. La radio, quante volte hai sentito dire che era spacciata? Sì. Io credo che non abbia mai vissuto momenti come questo in passato. Ma un esempio ancora più clamoroso, se vuoi, te lo dà la fotografia. La fotografia non ha ucciso la pittura, ha ammazzato il ritratto, ma ha creato nuovi modi di espressione. Quindi c'è sempre poi nel lungo periodo una risistemazione dell'impatto della tecnologia. Ti faccio l'esempio più clamoroso di questi mesi, questi ultimi mesi, il fatto che si veda un ritorno al libro di carta, che questo impatto degli ebook, che sembrava inevitabile, che avrebbe distrutto l'oggetto libro, non solo non c'è stato, ma la stessa Amazon sta cominciando ad aprire librerie fisiche. Quindi diciamo che poi alla fine sono le persone che resistono. Oppure, l'arrivo dei telefonini senza la connessione a internet, no? I vecchi Nokia o i vecchi telefonini, perché c'è il rifiuto poi di troppa tecnologia. Però questo, diciamo, riportato sullo scenario internazionale, sulla possibilità che l'Europa abbia una chance per imporre una propria idea di tecnologia, perché appunto, tornando a quello che dicevamo prima, sono gli Stati Uniti che oggi dettano legge, abbiamo dei sistemi operativi in mano che sono americani, servizi che sono americani, tutta una serie di cose che usiamo che sono americane e prodotte in Asia, anche se la produzione vale poco, perché quello che vale è il servizio del software. Sì, vale poco, ma è comunque un'industria che è la seconda, no, industria per piattaforme del mondo. A ovest ci stanno quelle software, a est ci stanno quelle hardware, e il fatto che ci sia Samsung in Corea, per esempio, o tanti altri grandi marchi, vuol dire che poi non è così povera quell'industria lì. Ci vuole una generazione perché avvengano certe cose. La Silicon Valley è nata nel 51 dall'idea, 1951, quindi tanti anni fa, dall'idea di un preside di una facoltà della facoltà di ingegneria di Harvard, che decise di donare il terreno ad aziende che fossero andate lì a impiantare una sede. Ci andarono Kodak, General Electric, Lockheed e molte altre, e nacque il primo parco tecnologico moderno, concepito come oggi, del mondo. Da lì poi si è sviluppata la Silicon Valley, ma l'epopea degli anni Ottanta, che noi conosciamo con Apple, Microsoft, Cisco, eccetera, viene da una storia precedente. Quando in Cina comprarono da IBM i computer, il reparto computer di IBM, si pensò che l'IBM avesse fatto un affarone sbarazzandosi, no, di queste cose. In realtà poi a est hanno creato un'industria che oggi è dominante nel settore hardware, ma ci ha messo 25 anni. Allora, l'Europa oggi ha la possibilità di partire con un'industria tecnologica. Due segnali: l'anno scorso ci sono stati, credo, 17 miliardi di investimenti in venture in Europa, che comincia a essere una cifra importante, e la quantità di aziende che sono listate nelle borse europee nel comparto high tech è superiore a quella degli Stati Uniti e dell'Asia. Dov'è la differenza? È che lì hanno le grandi piattaforme di base, quindi hanno quello strato che definivi giustamente, sistemi operativi per esempio, ma anche grandi piattaforme come eBay, Amazon, che fanno nascere altro business sopra, hanno quello strato che è determinante oggi, ed è lo strato in cui l'Europa deve creare i suoi campioni. Il motivo per cui un'azienda di 80 persone a Pavia ha la visibilità internazionale che abbiamo noi è che siamo una delle potenziali piattaforme di base del futuro in Europa. Ci sarà nei prossimi 10 anni, ci saranno due fenomeni trainanti. Uno, l'esplosione di un mercato che definisco, rubando la definizione a Cisco, Internet of Everything, l'internet di tutte le cose, che comprenderà l'internet delle cose, la domotica, le automobili connesse, l'information management, i big data e molto altro, e avrà uno spazio di 2 trilioni di dollari, secondo Gartner, che è sono i più pessimisti a dire questo, dal 2020. Se si pensa che la somma del fatturato dei primi 5 big della Silicon Valley gira più o meno intorno a un quarto di questa cifra, si può capire come si creerà quello spazio economico di mercato per far emergere i primi campioni dell'Europa, se ci saranno aziende capaci di farlo. Ci sarà lo spazio. Questo sarà determinato anche da un secondo fattore, ad esempio nel nostro caso. Quando noi andiamo oggi su internet, cerchiamo qualcosa che ci interessa, un libro, una ricetta, un amico, una notizia. Nei prossimi 5-10 anni la rete comincerà a essere sempre più invasa di cose, di informazioni che ci riguardano, che sono su di noi: la mia salute, le mie tasse, il mio rapporto con la città, la scuola dei miei figli, le mie informazioni di lavoro, eccetera, eccetera. Questo darà la possibilità di far nascere una classe di tecnologie che potrebbe rompere il dominio e il quasi monopolio a ovest sul software e a est sull'hardware, creando il primo gruppo di campioni europei. Ci vogliono ovviamente gli Steve Jobs, i Bill Gates, cioè le persone di grande genio che spingono questa rottura degli schemi, ma l'Europa ha tutte le caratteristiche, e onestamente penso che l'Italia possa essere, per la sua storia, per la sua capacità di creare grandi cose che poi sono invidiate e adottate in tutto il mondo, credo che si possa combattere questa battaglia. Di sicuro bisogna farlo. Sì. Senti, per far tutto ciò mi sembra di capire che ci vuole molto tempo, perché voi lavorate su questa tecnologia da prima del 2010, però l'azienda è stata fondata nel 2010. Beh, se hai una tecnologia veramente disruptive, cioè che cambia le cose, nella storia della tecnologia il tempo dalla concezione dell'idea a quando arriva sul mercato difficilmente è inferiore a 15 anni. Questa è la storia. Faccio l'esempio del Macintosh. Il Macintosh è nato da tecnologia che era stata sviluppata nello Xerox Park e che era già disponibile in una macchina che si chiamava Xerox Alto nel 1976. Il Macintosh è nato nell'84, quindi 8 anni. I progetti dello Xerox Park non avevano mai una gestazione per statuto inferiore ai 7 anni. Quindi sicuramente la tecnologia che ha cambiato il mondo del computer, che è stato il Macintosh, quando è nata aveva una storia di almeno 15 anni dietro. Il mouse, che è arrivato col Macintosh nelle mani di tanti e poi di tutti nel tempo, il Macintosh dell'84, il mouse è stato creato da Douglas Engelbart nel 63. Quindi quando hai qualcosa che veramente cambia lo stato delle cose, è normale che ci sia una crescita così lunga. Volevo solo aggiungere una cosa, questo anche se mi permette con un pizzico di orgoglio. È vero che Facility Live è nata a settembre del 2010, ma 4 anni fa eravamo 7 persone in un appartamento. Quindi sì, anche perché va detto che tu hai fatto degli esempi di qualche anno fa, oggi molte di queste cose si stanno accelerando. Quindi anche il tempo, diciamo, di arrivo sul mercato di molti prodotti è molto più accelerato. Questo sicuramente. C'è anche un'altra cosa. Noi abbiamo fatto la scelta incosciente per alcuni all'epoca, nel 2013, coraggiosa per altri, secondo me dovuta, di rimanere in Italia, non andare in Silicon Valley, come era dopo aver ottenuto brevetti in allora 36 paesi, oggi sono 44, la cosa naturale da fare. Lo abbiamo fatto per due ragioni: credevamo che l'Europa avrebbe cambiato, e abbiamo avuto ragione, passo, ma soprattutto io e Mariuccia avevamo la sensazione forte che fosse un dovere provare a restituire quello che stavamo facendo anche al nostro paese, alla nostra città che è Pavia. Il give it back, che è molto anglosassone come, e che dovremmo imparare, certo, secondo me, a usare in Italia. Quindi l'accelerazione oggi è dovuta anche al fatto che ci sono stati quelli che hanno creato i presupposti per una cosa del genere. Tieni conto di una cosa: noi abbiamo raccolto 32 milioni di euro in questi primi 6 anni e mezzo di vita dell'azienda, perché abbiamo fatto una scelta difficile. Ma se fossimo andati in Silicon Valley e fosse stata giudicata la nostra tecnologia importante, i 30 milioni di euro li avremmo avuti il primo giorno. Quindi c'è questo gap da colmare di tempo. L'esempio che porto sempre: Salesforce, oggi decima azienda del mondo del software, primo giorno sul tavolo nel 2000, 35 milioni di dollari, l'anno dopo 120. Allora lì cammina, sì, così. Sì, la velocità è accelerata da queste cose. I pionieri qui devono fare un po' più di fatica. Allora, in bocca al lupo, Giampiero Lotito, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie. È tutto per questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per aver scaricato o ascoltato in streaming la nostra versione podcast. Potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it oppure utilizzando Facebook o anche Twitter, ma dipende quello che volete scrivere, se io preferisco sempre la email. Ci risentiamo la prossima settimana.